A che punto sono gli aiuti per la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia? La risposta è di Paride Barani, presidente della Commissione Terremoto dell'Ordine dei Commercialisti di Reggio Emilia. Ad oggi non sono arrivati ancora contributi di nessun tipo, mentre invece lo Stato ha chiesto a coloro che sono residenti nelle zone del cratere, hanno chiesto il pagamento di tutte le imposte e i contributi. Quindi lei diceva non è arrivato un soldo ancora? No, no. Tutto sulla carta, quello che abbiamo letto fino adesso. Assolutamente sì. Le parole che avete appena sentito meritano attenzione. Dopo il terremoto in Emilia, come spesso accade, sono arrivate le promesse, tante promesse, ma come troppe volte accade, alle promesse non stanno seguendo i fatti. Il risultato è che c'è ancora molto da fare. Radio 24 si è impegnata a non lasciare soli gli emiliani delle zone terremotate. Lo abbiamo fatto nel dicembre scorso con una settimana di programmazione della radio e proseguiamo oggi in un Radio Day, cioè un'intera giornata in cui ci occuperemo dei problemi della ricostruzione. Perché non arrivano gli aiuti tanto attesi? Perché la burocrazia sta uccidendo le speranze e i primi segnali di ripresa? Cosa sta accadendo lontano dai riflettori dei media che ormai si sono spenti? Radio 24, a partire da oggi, dedicherà ogni mese una giornata di programmazione all'Emilia colpita dal terremoto. I nostri microfoni sono a disposizione di chi sta lottando per superare momenti drammatici. Un piccolo contributo, ma crediamo che possa essere significativo.